Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Chi l'avrebbe mai detto? Un derby da scudetto la prossima domenica. Non è un gioco di parole, anche se fa rima, ma è il leitmotiv della settimana che porta a Inter Milan. Dovesse vincerlo il Milan, che oggi è oggettivamente più in forma dell'Inter, resterebbero solo 3 i punti di distacco, con una partita da recuperare a Firenze, che non è facile, ma anche la Fiorentina a sua volta attraversa un brutto momento. E direi che le vere delusioni di ieri sono le vere sorprese di ieri sono più ancora della sconfitta della Juventus in casa del Chievo, visto il momento, e la sconfitta in casa della Fiorentina con il Bologna. Chi l'avrebbe mai detto? Insomma, tanti di noi, quasi nessuno, di sicuro non Lippi, visto che secondo lui era la Juventus la favorita di questo campionato. E a proposito di chi l'avrebbe mai detto, 19 giornate dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Juve, che costò l'esonero a Spalletti e propiziò l'arrivo di Ranieri, sabato c'è Juventus-Roma, con la Roma che si presenta a Torino addirittura 2 punti sopra alla Juventus. È una realtà romanzesca, se ripensiamo a come era iniziato il campionato, esattamente come una realtà romanzesca il possibile aggancio, possibile al momento, potenziale del Milan sull'Inter. Sono i due motivi principali scaturiti dalla giornata di ieri, ma non i soli, perché per esempio due anziani giocatori di 4 lettere, il primo si chiama Doni e il secondo si chiama Toni, sono stati alla base dei successi dell'Atalanta sulla Lazio e della Roma sul Genoa. Poi anche qui ci sono numerose rivincite, perché Toni, che forse non si era comportato bene col Bayern, da quello che si è ricavato da tutto quanto si è letto e sentito a Monaco, ma certamente nemmeno Bayern si era comportato così bene nei confronti suoi. La rivincita di Doni è ancora più eclatante ed era con tutta evidenza dedicata ad Antonio Conte, l'allenatore subentrato che lo aveva progressivamente emarginato sino ad ignorarlo. Insomma, 2 gol in 9 minuti, tra l'altro di ottima fattura, come si usa dire, come i due di segnati da Doni ieri nei primi 9 minuti per l'appunto di Atalanta-Lazio, sono una discreta rivincita. E poi mi pare che stia rifiorendo una categoria di cui un anno fa si parlava male perché sembrava che fosse una categoria in estinzione, che è quella dei portieri, invece dei portieri di qualità. Ieri Handanovic ha parato un rigore con una prodezza assoluta e nel secondo tempo si è ripetuto su un colpo di testa con una parata credo ancora più difficile, mi pare su Biabiani. Ha giocato una grande partita a Firenze e non è la prima volta. Viviano, il portiere del Bologna, che tra l'altro è di Fiesole e quindi applaudito e acclamato dalla curva Fiesole, un avversario ma un fiesolano, anche questa mi pare sia una notizia. Ha parato un altro eccellente rigore De Santis ieri sera col Napoli, e poi Sirigu e poi Mirante, non sono pochi i portieri che si stanno segnalando ad alto livello. Il gol più bello di giornata è certamente quello di Borriello, perché è una prodezza assoluta, di quelle che si vedono di rado sui campi di gioco, e oltre alle prodezze di Ronaldinho, un grande gol di Padoin, mi piace segnalare la punizione di Gliama a Genova. Questo giocatore del Catania ha calciato come calciava il suo attuale allenatore Mihajlovic, con una precisione e una potenza assolute, di livello assoluto. Sono tanti altri gli spunti di giornata che poi approfondiremo insieme, come sempre, all'800240024. Comincerei a sentire i due protagonisti di questa settimana di vigilia. Vi dicevo, uno è certamente Leonardo. La cosa importante che sta succedendo è che noi pensiamo ad ogni partita, ed è vero che pensavamo solo a oggi, non pensavamo a quello che sarà la partita della settimana prossima contro l'Inter. Credo che questa è la forza di una squadra, che sa che ogni impegno è importante, ogni impegno sicuramente è un'opportunità di crescita, e credo che ogni giorno questa squadra mette un qualcosa dentro, e quella è la cosa che ci fa felice. Dopo mancano ancora tantissime partite importanti, difficili, e credo che giocando così, io credo che la ricerca è la continuità. E questo è il commento di peccato, misurato come sempre, di Leonardo, che probabilmente è il segreto vero Lui e il suo modo di operare, sia da un punto di vista tattico, indubbiamente innovativo, molto rischioso, ma fino al momento ha funzionato, sia dal punto di vista comportamentale, dei rapporti che ha saputo creare all'interno della squadra. L'altro protagonista di giornata, vi dicevo, è certamente Ranieri, perché ci avessero detto che 18 partite dopo essere subentrato Ranieri si sarebbe già preso la rivincita, per il momento parziale, è un traguardo volante, ma insomma al momento se l'è presa la rivincita sulla Juventus, che lo ha esonerato lo scorso anno a 2 o 3 giornate dalla fine, non ricordo, ma insomma il numero era comunque avvilente, non tanto per Ranieri quanto per la Juventus. Credo che in pochi ci avrebbero creduto, forse nemmeno lui stesso. Sentiamo Ranieri dopo Roma-Genoa. Noi sappiamo che non abbiamo fatto nulla, il campionato è lungo, stiamo attraversando un buon momento di forma, l'avevamo fatto vedere prima della sosta di Natale, la squadra giocava a mille, si ritrovava a memoria, la sosta non ha scalfito questo stato di forma e le cose si stanno vedendo. Adesso siamo terzi, stiamo giocando bene, dobbiamo continuare in questo momento a spingere, perché dobbiamo fare punti, perché la lotta è serrata e ci sono molte squadre, per cui è importante, come ho detto prima, giorni fa, essere addirittura d'arrivo in una buona posizione di classifica. Qualche curiosità scovata come sempre da Franco Piantanida, beh insomma questa non l'ha scovata lui, nel senso che la prima vittoria in assoluto del Chievo con la Juventus arriva dopo 3 pareggi e 12 sconfitte, da quando il Chievo si è affacciato alla Serie A, la squadra di quartiere aveva battuto tutti prima o poi, ma mai la Juventus. Ieri ha colmato questa lacuna, l'ha colmata contro una Juve che prende gol in campionato da 10 giornate consecutive, per un totale di 19 gol in queste 10 giornate. Ranieri ha sempre battuto il Genoa con le sue squadre quando ci ha giocato in gare casalinghe, cioè 6 su 6. Nelle ultime 12 partite la Sampdoria ha vinto una sola volta, 2-1 col Chievo il 21 o 22 novembre. Se confrontiamo le classifiche, la classifica attuale con quella di un anno fa, scopriamo che la squadra ad avere il maggior saldo attivo è proprio il Chievo, che ha 11 punti più dell'anno scorso. La peggiore è il Siena, che ne ha 13 di meno, ma comincia ad arrivare molto vicino alla Juve, che rispetto a un anno fa, cioè la Juve di Ferrara rispetto a quella di Ranieri, ha perso la bellezza di 10 punti. La Juventus di allora era a 43 punti, dopo 20 giornate staccata di 3 lunghezze dall'Inter, oggi ne ha 33 ed è staccata di 13, visto che l'Inter ha lo stesso punteggio di un anno fa. Il primo ascoltatore di oggi è Salvatore, ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, vorrei chiedere, è possibile le dimissioni dei giornalisti di Tutto Sport, visto i danni che hanno fatto alla Juve con i loro articoli? Non credo, non, cioè le dimissioni, se parliamo di dimissioni pittoresche, cioè se parliamo di paradossi o di provocazioni, a Torino bisogna sempre andarci piano, perché poi ci pigliano sul serio. Ho letto che Cairo ha chiesto, mi pare, 10 milioni di euro di danni al presunto compratore dello scorso anno del Torino, sostenendo che era poi un personaggio improbabile almeno quanto il suo cognome, Ciuccariello. Allora, secondo Cairo, tale Ciuccariello avrebbe la trattativa con tale Ciuccariello, così come se si potesse imbastire una trattativa, ripeto, con un soggetto così, era costata, secondo Cairo, al Torino una destabilizzazione prolungata proprio nella fase decisiva della stagione. Da qui la richiesta di 10 milioni di euro. Quindi ci vada piano, Salvatore, con le provocazioni. Ma Leonardo non aveva sbagliato mestiere, domanda un ascoltatore. No, era stato lui, amico caro, se ricorda bene, a sostenere nella scorsa primavera di non essere adatto a quel mestiere. E a proposito di cantonate, no? Ricordavo all'inizio quella di Lippi, lasciamo stare Cannavaro, lasciamo stare Grosso, lasciamo stare i dettagli, ma così in generale aveva detto che a parer suo quest'anno la Juventus sarebbe stata la favorita per lo scudetto. Bene, anche Leonardo aveva preso un'auto cantonata, perché lo scorso anno, quando si era parlato, quando era uscita la possibilità, si era ventilata la possibilità che fosse lui a sostituire Ancelotti, aveva la sua prima risposta era stata una sorta di domine non sum dignus, nel senso di dire: io sono un manager, credo di essere un manager calcistico, non un uomo da panchina. Beh, insomma, mi sembra che abbia il tempo stia dimostrando esattamente il contrario di questo. Sergio ha chiamato dalla provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto sono un tifoso dell'Inter e volevo fare i complimenti al Milan di Leonardo. Sì. E poi, proprio da tifoso dell'Inter, mi manca la Juve competitiva, nel senso che vengono a meno quegli sfottò che ci sono quotidianamente. E mi chiedevo però come mai i tifosi non capiscono che dopo tutto un anno di Serie B è parecchio penalizzante, nel senso che ci vuole parecchio tempo per risalire a quello che si era una volta, nel senso che secondo me è stato Ranieri che ha fatto un miracolo dopo la Serie B, ma comunque ci vuole tempo per risalire la china dopo un anno nella serie cadetta. Volevo sapere cosa ne pensava, grazie. Penso che lei abbia ragione, penso che su Ranieri sia stata presa una cantonata grave, già era stata presa su Deschamps, ma quella su Ranieri è certamente più grave. Penso anche che tutto sia complicato ulteriormente dal fatto che la Juventus può spendere entro certi limiti. Allora, quest'anno ormai lo sanno anche i Sassi, no? che hanno speso 25 milioni di euro per Diego e 25 milioni di euro per altrettanti per Felipe Melo. E tutti a dire che questi soldi sono stati buttati, è vero. Poi sarà il tempo a dirlo in maniera definitiva, ma insomma, diciamo che il sospetto, soprattutto per quanto riguarda Melo, passano le partite e si fa strada. Il problema è che la Juventus non se lo può permettere, a differenza dell'Inter, perché l'Inter l'anno scorso ha buttato la stessa identica cifra di 25 milioni di euro per un certo Quaresma, che sta facendo danni ancora adesso ogni volta che viene chiamato in causa. Ma è tale in questo momento la sproporzione economica finanziaria tra le due società che l'Inter se la può permettere, alla maniera delle, non so, delle grandi squadre inglesi. La Juventus no, evidentemente. E quindi, se sbagli due acquisti di quel calibro, poi arrivi a gennaio, ti trovi in situazione di organico, oltre che di crisi tecnica dei risultati e di tutto il resto, e anche ambientale direi a questo punto, ti trovi a dover rafforzare la squadra e non hai più l'ossigeno, non hai più le risorse. Tant'è vero che fai questa operazione, secondo me è incredibile, di andare a prendere Paolucci, cioè di andare a riprendere un giocatore del tuo vivaio che sta facendo la riserva a Siena e a buttarlo in campo, mandarlo in campo direttamente in una partita difficile psicologicamente, soprattutto come quella di Verona, cioè letteralmente mandandolo allo sbaraglio. Queste non sono cose da Juventus, a parer mio. Lorenzo ha chiamato dalla provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno signor Gigi. Dica. Due cose velocissime. Una, se lo conosce, come vede questo nuovo inserimento della Fiorentina, il giovane Liaic, 19 anni, io purtroppo non lo conosco. E siamo in due, ne parleremo quando l'avremo visto. Perfetto. Un'altra cosa, secondo la sua bella esperienza, come vede o come prevede dannata di questa Fiorentina un po' così altalenante? Ecco, solo questo, perché io mi fido solo del suo parere. Grazie. Io non vorrei una responsabilità così pesante. Non mi sembrava una grande annata quella di campionato, già prima di questa sconfitta di ieri. E parlo di campionato, non parlo di Coppa. In Coppa gli elogi sono arrivati e sono stati puntualmente mandati all'incasso, come era giusto che fosse per la squadra che meglio si è comportata di tutte le italiane nei gironi di qualificazione, tant'è vero che il suo girone l'ha vinto. In campionato mi sembrava già prima di ieri che il rendimento non fosse lo stesso della Coppa. La sconfitta di ieri in casa è grave perché è stata incassata da una squadra di bassa classifica, da una squadra che si è limitata a fare il suo, insomma, ha giocato una buona partita il Bologna, ma non una squadra travolgente o particolarmente sorprendente. E come Prandelli ha detto, e magari possiamo sentirlo tra poco, è grave che una squadra come la Fiorentina, in una domenica in cui rimpinguare la classifica e stare agganciata a questo gruppetto che lotta per il terzo posto, perché ormai mi pare che il primo e il secondo siano assegnati e siano soltanto da distribuire tra di loro, ma il terzo con la Juve in questo stato è apertissimo. Quindi oggi una Fiorentina a 33 punti avrebbe tutt'altro significato, anche psicologico e non solo di punteggio, rispetto a una Fiorentina a 30. Vi dicevo di Prandelli. Prandelli ha individuato la ragione per cui. Sentiamolo. Abbiamo concesso un tempo, abbiamo concesso 45 minuti senza ritmo, senza intensità. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto una grande partita, però è stata inutile perché non siamo riusciti a ribaltare il risultato. È stato un approccio sbagliato, molto probabilmente le tre vittorie con tanti complimenti ha fatto sì che abbiamo perso un po' di tensione. E capita nel calcio, capita, e l'importante è far tesoro degli errori e non commetterli più. Per converso sta andando davvero molto bene la Roma. Fa notare Max da Perugia che la Roma ieri ha vinto nettamente senza Mexé, senza De Rossi e senza Totti. Significa, scrive, che la rosa è solidissima. È vero, sembra di essere tornati ai tempi migliori di Spalletti, in cui anche le assenze venivano metabolizzate dalla squadra, in cui c'era brillantezza di gioco. Comunque adesso forse la brillantezza assoluta di allora non c'è, però c'è più solidità difensiva, c'è meno vulnerabilità. Tre assenze di quel genere sono pesante. Vorrei solo fare notare, per contraltare, che sia il Genoa che la Sampdoria non stanno vivendo un buon momento. Anzi, in classifica, dai 35 punti della Roma ai 27 di Genoa, Sampdoria e Chievo, per l'appunto, non c'è questo enorme sbilancio. Però è anche giusto osservare come il Genoa dello scorso anno avesse tutto un altro passo, un'altra solidità, un'altra credibilità. La Sampdoria no, andava peggio, però quest'anno aveva illuso in ben altra maniera, e il fatto che siano nelle posizioni di coda di questo gruppo centrale qualcosa vuol pur dire. Giuseppe è in linea dalla provincia di Latina. Buongiorno dottor Garanzini. A lei. Volevo sapere il suo parere sulla questione Lazio, che si trova a meno 11 rispetto all'anno scorso, e a meno 11 ci vuole la coperta, perché fa freddo, ed eventuali responsabilità secondo lei di questa situazione, insomma. Beh, le responsabilità sono, mi pare, abbastanza semplici. Cioè, la Lazio ha giocato senza 2-3, ha fatto una scelta societaria coraggiosa e difficile, l'ha persa. La sta perdendo, una l'ha già persa, l'altra ho l'impressione ledesma che la stia perdendo, e con un organico depauperato evidentemente non è competitiva. Credo debba correre ripari con una certa urgenza, perché gli 11 punti in meno dell'anno scorso sono tanti, ma quelli che pesano di più sono i 4 di adesso, i 4 che ha sulla zona B. Udinese e Lazio a quota 20 in questo momento, con 4 soli punti di margine sulle due terzultime, che sono Atalanta e Catania, sono conciate male tutte e due, e devono seriamente preoccuparsi di una classifica così. Alessandro Milano. Salve Garanzini, io chiamavo per parlare due cose della Juventus. Una, che sono contento che la società non abbia fatto ricorso per la chiusura della curva, perché la trovo una cosa giustissima, e che paghi soprattutto la curva, non tutto lo stadio. Alessandro, la interrompo un istante, non solo non ha fatto ricorso, ma mi pare che la presa di posizione di Blanc, che dice, e lo condivido in pieno, che dice riportiamo la polizia negli stadi, perlomeno nel nostro, vuol dire che non solo non ha fatto ricorso, ma vuol dire ben altro. Io sono completamente d'accordo, che sono un ragazzo giovane, ma vado allo stadio, ma io mi comporto da persona civile, vado a vedere la squadra, certo. Non vado a insultare altri, vorrei che lo stadio fosse formato da tutta gente come me, ecco. Mentre un'altra cosa, invece, per quanto riguarda la squadra, io non sono così contrario alla dirigenza per quanto riguarda la campagna acquisti, che secondo me, a mio parere, era buona. Il problema è che questi giocatori comunque in generale stanno rendendo al di sotto delle proprie possibilità. Non erano a livello dell'Inter, ma non è che devono perdere in casa col Catania o perdere tutte le partite come stanno perdendo adesso. Cioè, lì adesso secondo me bisogna che o si tiene Ferrara o si trovi un altro allenatore che dia una scossa a questa squadra, perché è completamente ferma. Ferma e impotente. Non tirare in porta, o meglio, telefonare come ha fatto Del Piero, un solo pallone da fermo in 95 minuti contro il Chievo è avvilente, insomma, evidentemente. Eppure è stata l'unica palla che è arrivata nello specchio di Sorrentino ieri, che forse l'ha presa col petto e quindi non si è nemmeno sporcato i guanti, non ricordo bene, e questo vuol dire che è molto, molto triste per la Juventus. È vero anche che in tutto questo Responsabilità dei giocatori sono chiarissime, le responsabilità del tecnico a questo punto della stagione non possono non esserci comunque. Angelo, provincia di Bergamo, buongiorno. Grazie, buona giornata Gigi. Dunque io non voglio far polemiche, però se la società Juventus non vuol mandar via Ferrara, ma perché i giornalisti continuano a dire bisogna mandarlo via, bisogna mandarlo via, bisogna mandarlo via? Quando Cooper è in testa di 8 punti, dicevano uguale di Lippi, deve andarsene, e poi quell'anno lì ha vinto lo scudetto. Ma lasciamo lavorare in pace, e poi dopo fine l'anno tireranno le somme. Ha sbagliato, pagano, ma però non si può sempre tutte le volte i giornali contro Ferrara e Rocky 2 e Rocky 1, se sembra persino di essere andati al mercato, non c'è più rispetto per le persone. Sì, Angelo, no, non mi pare siano soltanto i giornali, detto tra noi, mi pare che i giornali poi in questi casi, in questo caso in particolare, stanno interpretando gli umori di una tifoseria. Certi giornali, soprattutto dopo il linciaggio gratuito dell'altro anno a Ranieri, mi pare stiano andandoci molti, molto più cauti, nei limiti del possibile e nei limiti della decenza loro, che poi è relativa. Spazio anche un po' di interventi scritti. Ho controllato la mail. Scrive per esempio Guido Benigni: non trova che il sistema mediatico spinga decisamente troppo la posizione di classifica del Milan? Ieri in radio, TV e oggi sui giornali sembra che i primi in classifica siano loro. Secondo lei serve per rivitalizzare le scommesse o perché i migliori venditori di qualsiasi prodotto sono in ambito Fininvest? Io non sarei così dietro, cioè non starei a fare tutte queste cose. Io penso molto, ma molto più semplicemente, che il campionato finalmente non sia chiuso, e questo a 18 giornate dalla fine non può essere che un bene, un motivo di interesse per radio, giornali, TV e appassionati in genere. Certo, un po' meno per gli interisti magari, però sinceramente non se ne può più di campionati monocromatici, anzi bicromatici, visto che l'Inter ha due colori sulla maglia. Quindi se arriva un rivale, un avversario, qualcuno o chiunque tenga aperta la lotta un po' di più, è evidentemente per l'apparato mediatico il benvenuto, senza nessun retropensiero. Seba da Milano scrive: se avessi un euro da scommettere sul vincitore di questo campionato e lo giocassi sulla Roma, lei che ne pensa? Beh, mi informerei bene sulla quota prima. Credo però che la quota sarebbe molto ma molto alta, anzi magari possiamo anche buttarci un occhio prima di chiudere il programma, così si sa un po' regolare. E ancora uno, Andrea scrive: penso proprio che Leonardo non c'entri molto con la guida tecnica del Milan, lo vedo troppo spesso confabulare con chi secondo me è il vero allenatore, cioè Tassotti. Qui sta la vera differenza con la Juve: Leo che parla con Tassotti e Ferrara con Maddaloni, scrive Andrea da Modena. Ma non c'è dubbio che sostengo io che Leonardo si consulti spesso e volentieri con un uomo di campo, di calcio e di rara intelligenza come Tassotti. È una fortuna per lui avere un collaboratore di questo genere. Da qui a dire che non c'entri con la guida tecnica del Milan Leonardo è il nostro solito motto, che o si esagera o non si comincia nemmeno a parlare. Paolo, Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Due domande molto veloci. La prima, io ricordo delle sue affermazioni abbastanza decise sul Milan delle figurine. Sì. Mi chiedo se oggi l'esempio Beckamp non faccia un po' rivisitare queste affermazioni. L'esempio? Mi scusi che non ho capito. L'esempio? Beckamp. Beckamp sarebbe quello senza la P, insomma, quello il biondo. Beckamp. Lo Spice Boy. Non le faccio un po' rivisitare questa affermazione, e facendola riflettere sul fatto che dietro la figurina c'è sempre anche un professionista con la sua, certo, con il suo carattere, la sua professionalità, e Beckham mi sembra che sia l'esempio principe di questa dicotomia figurina ma anche grosso professionista. Non c'è nessun dubbio. La seconda... Va bene, sì. Andiamo una per una, dai. Dal punto di vista della serietà professionale non c'è nessun dubbio. Ho letto da parte di Carletto Ancelotti, che è una persona di cui mi fido molto e che molto stimo, ho letto un elogio professionale a Beckham persino imbarazzante, comunque a tutto tondo, che mi ha convinto di questo, del fatto che sia una figurina, perché ha tutto della figurina, a cominciare dalla moglie e da tutto il cinema che li circonda, il glamour che li circonda, ma ha questa grande sostanza di professionalità. Se poi da lì arriviamo all'effettiva utilità di Beckham per il Milan, io continuo ad avere i miei fieri dubbi, ma questo evidentemente è opinabile. Lo scorso anno, per esempio, giocò in quei 4 mesi d'affitto, giocò le prime 2-3 partite di inserimento, 3-4-5 partite molto buone. Negli ultimi 2 mesi non ricordo Beckham, ma questo poi lo rivedremo quest'anno e non è un problema. Quello è l'altro concetto che lei sottolineava. La seconda è leggermente più polemica, ma neanche poi tanto. Torno sull'osservazione che aveva fatto Cappello del calcio schiavo degli ultras. Sì. Non pensa che il calcio ancor più degli ultras sia schiavo delle televisioni, e che questo Cappello non lo dica perché se non ci fossero le televisioni guadagnerebbe un centesimo di quello che guadagna facendo allenatore oggi? E ho concluso. Grazie. No Paolo, non è polemica, questa è sciocchina, se mi permette, con tutto il rispetto. Sciocchina in che senso? Schiavo degli ultra vuol dire dipendere dalla malavita. Mi sembra una cosa. Schiavo delle televisioni è improprio, perché vuol dire... sarebbe come se le televisioni avessero schiavizzato il calcio. È stato il calcio che si è consegnato alle televisioni avendone ricavi enormemente superiori. Quindi in un caso le televisioni fanno l'interesse del calcio, poi c'è da discutere fino a che punto il calcio resti libero di scegliere, lo vediamo anche da scelte di calendario discutibili e da tutto il resto. Però è una libera scelta di distribuzione del proprio prodotto. L'altro è semplice inquinamento quando è innocuo ed è delinquenza pura quando diventa meno innocuo. Non mi pare che siano due fenomeni che si possano paragonare. Enrico, provincia di Siena, buongiorno. Buonasera, dottor Garanzini. Dica. Una domanda e una considerazione. La prima è dunque, durante tutto il campionato lei e il suo collega, quello della palla a canestro che non ricordo come si chiama, Carlo Gente, avevate sentenziato, insomma, che ho parlato di Ronaldinho finito, Ronaldinho bollito, e questo ci può stare perché uno ha una sua idea e porta avanti la sua idea anche. Però ecco, mi piacerebbe... C'ha anche gli occhi per vedere, no? Sì, certo. Certo, era quello che le volevo dire. Però, infatti, nella prima parte è stato così, ecco. Però mi piacerebbe anche sentire dire da lei, ora magari al suo collega, che cioè, Ronaldinho è tutt'altra cosa, perché... Ronaldinho di oggi l'ha spiegato bene Leonardo, ieri, secondo me. Ha stupito persino i milanisti stessi, a cominciare da lui. E ha detto Leonardo ieri, e Leonardo più passa il tempo e più oltre a essere evidentemente un eccellente allenatore è una persona eccellente, ma questo si sapeva già prima, ha spiegato come Ronaldinho debba essere grato al Milan, ma in particolare ai suoi compagni che lo hanno aspettato, gli hanno fatto compagnia, lo hanno rivitalizzato, lo hanno protetto in un certo senso, ma anche in campo dalle sue lacune dinamiche evidenti e paurose, fino a un recupero pressoché completo ormai del giocatore che Ronaldinho era. Avevo una mail qua prima di un ascoltatore che si chiama Giulio Torelli, che scrive: seguo il calcio straniero da anni e posso dire ieri di aver visto per la prima volta in 18 mesi qualcosa che somiglia a Ronaldinho di Barcellona. Certo, scrive Torelli, partita agevolata, spazi ampi, come capita anche in Spagna, ma adesso Ronaldinho punta e salta l'uomo, oltre a calciare rigori come faceva sino a ieri. Non più solo sprazzi di Ronaldinho, insomma. Questa direi che è la fotografia. Poi chi ha gli occhi per vedere racconta quello che c'è da vedere. Il Ronaldinho dei primi mesi era impresentabile, del primo anno diciamo pure, il Ronaldinho all'inizio di quest'anno era praticamente lo stesso. L'intelligenza di Leonardo nell'aspettarlo e nel trovargli nel settorializzarlo, anche se non è una bella parola, ancora di più, e l'aiuto di tutti i compagni e la convinzione collettiva hanno aiutato Ronaldinho a tornare quello che quello che era stato, non ancora quello che era stato un tempo, ma simile, davvero simile a quello che era stato un tempo e comunque prezioso. Mauro, provincia di Padova, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Come dice un vecchio proverbio, si stava meglio quando si stava peggio, nel senso che l'anno scorso noi tifosi juventini abbiamo crocefisso, io per primo, abbiamo crocefisso Ranieri in quanto, cioè, a mio avviso, perché non sapeva prendere certe decisioni con certi giocatori. Sì. Quando che questi giocatori per tutto il campionato fino adesso hanno fatto tanta di quella panchina che ormai hanno le piattole al sedere e hanno solo fatto ostruzionismo e basta. Adesso che dovevano dimostrare qualcosa stanno facendo peggio di quando stavano seduti in panchina. Abbiamo una dirigenza fallimentare, che a dir poco, e non sanno prendere una posizione, non so a riguardo di che cosa aspettano e cosa vogliono fare. Vorrei sapere lei cosa ne pensa in proposito. Mauro, non si parla d'altro, non mi sembra un intervento particolarmente originale e non mi sembra che qualsiasi cosa dica io la Juventus stia lì a pendere dalle mie labbra o gli juventini. La situazione è sotto gli occhi di tutti e non, lei ha anche usato un'immagine particolarmente sgradevole, quindi passerei a Francesco che ha chiamato da Napoli. Buongiorno. Buon pomeriggio a lei, dottor Garanzini. Le volevo chiedere una cosa, un parere secco. Crede che il presidente Puzzo abbia fatto bene a giubilare Marino per De Biase? Ascolto per radio, grazie. La risposta è altrettanto secca, no. No, proprio no. Opinione ovviamente personale, ma no. Sentite... io vi leggo ogni tanto delle mail che arrivano, ve leggo ancora una, qualcuna di prima l'ho già letto e mi sembrava di particolare interesse. Quest'altra è firmata Michele Cortellini e dice: sono tifoso milanista e a essere onesto non mi aspettavo certo una stagione così. Ho lasciato però a inizio campionato il beneficio del dubbio a una persona di cui ho grande stima, Leonardo. Gradirei che tutta quella massa di milanisti che inizio stagione dopo il primo periodo difficile screditava le uscite della dirigenza del Milan facesse un palese dietrofront e ammettesse di essersi sbagliata. I fatti non si discutono, la squadra non vincerà un trofeo con assoluta certezza, ma a dispetto di ogni previsione farà una stagione competitiva divertendo il suo pubblico come non capitava da qualche anno, il tutto senza fare mercato perché nessuno dei titolari è un nuovo arrivo, parentesi, Abate era già del Milan. Firmato, ripeto, Michele Cortellini da Monza, mi pare. È il momento del ripasso di storia. Il 18 gennaio affidato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 18 gennaio 1920. Al velodromo Sempione di Milano, la nazionale italiana sconfigge la Francia in amichevole per 9-4. Al netto successo partecipano anche 6 esordienti. Tra questi spicca l'attaccante italo-svizzero Ermanno Aebi, non solo perché realizza una tripletta, ma soprattutto per essere il primo oriundo a indossare la casacca dell'Italia. La sua carriera in nazionale durerà solo il tempo di un'altra partita, proprio contro la Svizzera. Aebi è uno dei pochi a vantare un numero di reti superiore a quello di presenze. Ricorderete l'ascoltatore di prima che aveva un euro da scommettere sul vincitore di questo campionato e lo voleva giocare sulla Roma, gli ho promesso la quota. La Roma attualmente è bancata a 40, quindi l'euro di Sebastiano Greco aumenterebbe di 40 volte la posta nel caso che vincere il campionato, nel caso abbastanza improbabile, con tutto rispetto per la rimonta alla Roma, nel caso che vincere il campionato fosse la squadra di Ranieri. Massimo ha chiamato la provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, signor Garanzini. Senta, io volevo parlare dell'argomento Juventus e delle tante analogie che si sono trovate tra l'ex allenatore Maifredi nella stagione 90-91 e quella di quest'anno, appunto, di Ferrara. Ho l'impressione che, come nel 90-91, i giocatori non diano retta all'allenatore per un semplice motivo, che l'allenatore aveva delle preferenze nei confronti di alcuni giocatori e ci sia stato una sorta di boicottaggio oppure di ammutinamento, chiamiamolo un po' come vogliamo, nei confronti dell'allenatore. E ho l'impressione che anche per Ferrara ci sia un po' la stessa situazione, cioè i giocatori, da che si vede in campo, per quello che noi possiamo appunto intuire o vedere, pare che non diano retta a quello che sono le indicazioni dell'allenatore. Cioè l'allenatore è veramente in difficoltà, ma credo per questo motivo. Volevo sapere che cosa ne pensava lei. Non lo so, sinceramente dovrei per non basta vedere una partita alla TV per ricavare sensazioni di questo genere. Bisognerebbe seguire la squadra, insomma, quando facevo il cronista tanti anni fa, ed era possibile seguire davvero le squadre da vicino, allenamenti e contatti quotidiani, allora si potevano anche ricavare non sensazioni, ma insomma elementi di questo genere. Oggi credo che sia, non dico impossibile, ma sia molto più difficile, in ogni caso non certamente dalla TV. Vi avevo promesso uno Zamparini d'autore. Quello di ieri era un rigore netto, c'era anche il cartellino rosso. De Laurentiis ha sbagliato a dire certe cose. Sono pronto a dare 100.000 euro a chi mi dimostra che quello non è un rigore nettissimo. Vi dimostro che al Palermo quest'anno ne sono stati negati 9 netti. Sono allibito dall'atteggiamento di De Laurentiis, mio carissimo amico che facendo film conosce il calcio e viene influenzato da quelli che gli dicono che non è rigore. La partita è stata correttissima. Orsato ha danneggiato evidentemente il Palermo perché non ha avuto coraggio di assegnare il secondo rigore, che era evidente, era nettissimo a 2 metri. Come si giuri con arbitro quando si fa così? Io sono buonista e dico se l'è fatta sotto, ma se Orsato non ha coraggio che vada ad arbitrare i dilettanti. Questo è lo Zamparini di oggi, sempre in attesa di un portatelo via dal mondo del calcio, intendo, non certamente da altri mondi. Fabio, provincia di Modena, buongiorno. Ah, buongiorno dottor Garanzini. Io volevo intervenire per quanto riguarda il discorso Ronaldinho e Milan più in generale. Ecco, io sono un tifoso del Milan da sempre, ma oramai ho un'età che non mi identifico più con i tifosi, ma comunque con uno sportivo simpatizzante. Ecco, volevo dire, il Milan adesso sicuramente sta giocando bene, però io contesto del Milan, per esempio, la mancanza di programmazione, perché io vedo che il Milan sta ottenendo risultati ma non può continuare con della gente che gioca con il libretto della pensione in tasca. E per quanto riguarda il discorso Ronaldinho, io credo che Ronaldinho fino a un mese fa fosse un giocatore impresentabile e adesso sia un giocatore normale, sufficiente e non ancora all'altezza dello stipendio che percepisce. Ecco, questo è quello che volevo dire. Ma insomma, all'altezza degli stipendi che percepiscono certi giocatori si può discutere. Che adesso Ronaldinho non sia all'altezza di un... cioè no, non stia dando un contributo al Milan, mi sembra l'eccesso opposto rispetto a quelli... a quelli di prima, insomma. Proviamo, vabbè che la normalità è impossibile nel mondo del calcio, ma starei più o meno in mezzo, più dalla parte in questo momento di Ronaldinho, che comunque ha fatto un grande sforzo per tornare a essere innanzitutto un atleta e recuperando la condizione atletica tornare di conseguenza a essere a poter esprimere il talento che prima da fermo, completamente da fermo, gli risultava un pochino difficile esprimere, direi. Antonio, in linea da Como, buongiorno. È un piacere, dottor Garanzini. Grazie, reciproco. Volevo paragonare, secondo me, Milan e Inter, io sono tifoso interista, premetto, a un finale di arrivo in salita tra due corridori. Io penso di vedere l'Inter che è leggermente avanti ma che è già sulle gambe, si sta già girando, il Milan che viene su in agilità e scioltezza. Sì, però Antonio che ti prendo. Mi scusi, non stiamo parlando di un arrivo in salita, stiamo parlando di una salita di passaggio, perché poi ci sono altre 17 tappe. Volevo sapere cosa ne pensava, perché penso che se il Milan gioca come ieri ha già in testa lo scudetto. Della serie l'importante è esagerare e vale sempre questo lunedì. Sì, certo, se gioca come ieri in 11 contro 10 perché gli altri dopo 10 minuti si fa buttare fuori il portiere, è possibile, sempre non dimenticando il fatto che quegli altri sono davanti di 6 punti, poi con la partita a recuperare eccetera eccetera. Io credo invece che in previsione di un recupero poi da effettuare con loro comodo, no? Perché il calendario in questo momento, il calendario di recuperi e di Coppa Italia abbiamo appreso a essere un optional. In attesa del recupero con tutto comodo di Firenze, io credo che il Milan di domenica potrebbe anche accontentarsi del pareggio, che non significa giocare per il pareggio, anche perché nel calcio di oggi giocare per il pareggio non esiste più. Ma credo che non sarebbe un risultato così negativo per il Milan, perché in caso poi di, cioè quello che sarebbe negativo per il Milan sarebbe perdere, perché vorrebbe dire ripiombare troppo lontano e riperdere le distanze appena riacquistate. Io credo che restare a 6 punti con la prospettiva di un recupero e con 17 partite da giocare non sarebbe niente male. Poi è ovvio che in questo momento il Milan stia giocando meglio dell'Inter. Le ultime 3 partite dell'Inter contro Chievo, Siena e Bari, beh, insomma, non è che si sia visto molto sul piano della qualità, quindi in questo momento sta meglio il Milan. Ma non dimentichi che nella prima mezz'ora del derby d'andata stava meglio anche allora il Milan. Io ricordo una prima mezz'ora di quel derby in cui il Milan ha giocato decisamente meglio dell'Inter ed era arrivato più vicino alla porta, però poi al primo 1-2 vero tra Motta e Milito si era spenta la luce. Riccardo Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Complimenti tanto la ringrazio, sono uno juventino, della frase di Zamparini mi ha tirato su quel morale. Nel senso che quanto meno peggio, bravo, c'è di peggio al mondo, certo. Infatti, almeno uno sorride, certo. Disgrazia altrui, insomma, anche se noi siamo presi male. No, ascolti, due cose velocissime. Tanto io sono rimasto ammirato da Ventura, nel senso che l'ho visto giocare, sono da Treviso, l'ho visto quando ero a Pisa, e sto vedendo il Bari giocare come giocava a Pisa. Ero rimasto stupito con Kutuzov, Cerci, Castillo, mi sembra che stia riacquistando tutti. E veramente gioca bene e ha riproposto lo stesso calcio anche in Serie A, anche che ne dicono i difensivisti. Seconda cosa velocissima, il primo anno di Capello, quando è venuto alla Juve, mi ricordo che c'era già Vinovo e lui si rifiutò di andare a Vinovo, ma volle rimanere al Comunale perché diceva che Vinovo non era il massimo. Ora, tutta questa serie di infortuni ha un senso o non ha un senso con quello che ha fatto Capello, cioè rimanere al Comunale e non andare a Vinovo? Non lo so, non ne so rispondere, Riccardo. Anche qui bisognerebbe seguire da vicino, bisognerebbe sentire i cronisti, sentire chi segue i campi. Io da questa postazione lontana non sono certamente in grado di risponderle. È una riflessione interessante, certamente la sua, ma da lì a una risposta io non credo di sapergliela dare. Non credo neanche di poter dare spazio a Pasquale, che è già in linea da Bologna, perché ormai mancano una ventina di secondi alla fine dell'appuntamento e non vorrei troncargli la parola. Pasquale. Pasquale, la saluto soltanto con piacere, le do appuntamento sin d'ora a domani. Rosa ha il suo numero al centralino e la richiamerà domani con puntualità. Il tempo di ringraziare Filippo Aureggi in regia, Flavio Suardi e Franco Piattanini in redazione. Buon pomeriggio.